stiamo continuando a registrare numeri senza precedenti. A un certo punto vedevamo questi numeri crescere, sembrava ci fosse in qualche modo una crisi, ma purtroppo il flusso continua costante, quindi temo che sia un'emergenza che non durerà poco. Onestamente ancora non abbiamo visto contromisure significative o nemmeno dichiarazioni che si intendano prendere contromisure significative, quindi la situazione è molto molto preoccupante. Quello che colpisce è proprio il silenzio della politica. Che cosa spinge le persone a togliersi la vita in carcere? Le condizioni di detenzione? Allora, io credo che siamo in un momento particolare, anche fuori dal carcere. Ce ne accorgiamo meno perché suicidi, atti di lesionismo sono, come dire, spalmati su una popolazione enormemente più grande e sono fatti vissuti come fatti anzitutto privati, mentre il suicidio di una persona affidata allo Stato è un problema anche per la collettività, oltre che una tragedia privata. Credo che viviamo un momento particolarmente difficile, se si parla poi con i servizi di salute mentale del territorio ce ne danno conferma, e il carcere non è una fetta normale della società. Il carcere è un luogo dove si concentra una popolazione particolarmente fragile, in un momento di particolare crisi, in condizioni poi certamente particolarmente difficili che ovviamente non aiutano: il sovraffollamento, la mancanza di spazi, la mancanza di attività, la mancanza di personale ovviamente non aiutano, però tutto questo incide, ripeto, su una popolazione enormemente più fragile rispetto alla media della popolazione libera. Esistono degli strumenti per prevenire i suicidi? Esistono degli strumenti, esistono dei protocolli che aiutano il personale del carcere, diciamo, a non perdere di vista la persona e a individuare le persone che vanno, cui bisogna stare più vicini, che vanno seguite più da vicino per evitare che restino sole in momenti particolarmente difficili della loro vita. Però sono protocolli che probabilmente salvano tante vite, perché ovviamente noi non le notizie delle storie che non vanno a finire male non ce le abbiamo, quindi sono misure che funzionano. In ogni caso, diciamo, il salvataggio della persona che sta tentando il suicidio in carcere è un fatto ormai quasi quotidiano, però evidentemente non bastano. Quello che noi chiediamo per rispondere all'emergenza anzitutto è quello di, diciamo, accanto a questi strumenti sistematici, istituzionali, che sono importantissimi, cercare in questa fase di favorire di più possibile la comunicazione tra le persone detenute e i propri familiari, che o dove non ci sono i familiari, amici, affetti, anche quando la persona è all'estero, e questo ovviamente comporta tutta una serie di, quando i familiari sono all'estero, questo comporta tutta una serie di difficoltà che però vanno affrontate, perché ovviamente una persona sola è molto più a rischio di una persona che ha in qualche modo vicini i propri cari. Questo era uno dei problemi, ad esempio quello delle comunicazioni, che durante gli anni della pandemia avevano sollevato anche tensioni, no? nelle carceri, i colloqui, la possibilità di sentire anche i familiari. Sì, però dopo un momento iniziale in cui tutti, personale, detenuti, hanno dovuto un po' prendere le misure con la novità, in realtà la cosa è andata piuttosto bene. Certo, qualche istituto è rimasto indietro, ci sono istituti in Italia che hanno problemi a garantire la copertura telefonica, quindi immaginiamoci cosa succedeva quando si volevano fare le videochiamate, eccetera. Però il sistema nel suo complesso, appunto, si è aperto alle videochiamate, che sono state un grande successo sia per i detenuti, per i familiari, ma anche il personale ci ha in qualche modo testimoniato di aver vissuto una stagione, come dire, più serena, più facile della vita in carcere. Il problema è che alcune di queste misure stanno venendo meno, in particolare noi eravamo preoccupati dal venir meno delle telefonate straordinarie. Nel sistema pre-pandemia il detenuto in media telefona 10 minuti la settimana a casa, che nel 2023 è un'idea assurda, con nessun contatto, come dire, nessun paragone con la realtà. Nessuno di noi parla 10 minuti la settimana con i propri cari, e non sapremo neanche immaginare come si possa strizzare tutte le cose che ci raccontiamo in 10 minuti la settimana. La normativa è ancora questa: l'amministrazione penitenziaria ha emanato una circolare dicendo, in soldoni, di interpretare questa norma nella maniera più estensiva possibile, di concedere telefonate straordinarie in tutti i casi in cui appare fare, diciamo, normativamente consentito, in modo da non stringere troppo questo rubinetto, perché le conseguenze sono in parte anche quelle che si vedono.